Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Giugno 1970, Mondiali del Messico. L'Italia impazziva per gli azzurri. I ragazzini sapevano a memoria le formazioni e i calendari. Io avevo 9 anni, ma di tutto questo non sapevo niente. Io stavo in Libia con la mia famiglia. Sono Giuseppe, vivo a Roma, sono nato a Tripoli. Ho 54 anni, ho un figlio e un sacco di storie alle spalle. Lavoro in banca e ma faccio anche tante altre cose. Città del Messico, 18 giugno 1970. Adesso è proprio finita. I tedeschi sono battuti. Beckenbauer con braccio al collo fa tenerezza ai sentimenti, a me nanca un po'. Ben 7 gol sono stati segnati. 3 soli su azione, degna di questo nome. Schnellinger, Riva, Rivera. Tutti gli altri rimediati, 2 autogol italiani, pensa a te, un autogol tedesco, Burnic, una setta di Bonimba ispirata da un rimpallo fortunato. Come dico, la gente si è tanto commossa e divertita. Noi abbiamo rischiato l'infarto, non per scherzo, non per posa. Il calcio giocato è stato quasi tutto confuso e scadente. Se dobbiamo giudicarlo sotto l'aspetto tecnico-tattico. Sotto l'aspetto agonistico, quindi anche sentimentale, una vera squisitezza. Tant'è vero che i messicani non la finiscono di laudare. I tedeschi meritano l'onore delle armi, hanno sbagliato meno di noi, ma il loro prolungato errore tattico è stato fondamentale. Noi ne abbiamo commesse più di Ravetta, famoso scavezzacollo lombardo. Ora siamo in finale e si può vincere, ma bisogna condurre veramente la squadra, non guardarla atterriti dalla panchina. Valcareggi e Mandelli, guidati da Franchi, ma sì, hanno molta fortuna. Napoleone gridava moltissimo, i generali fortunati. Sono graditi anche da noi quelli, benché siamo tifosi e non imperatori. Però la fortuna alla lunga è meritata. Mercoledì è stata meritata, onestamente. E fortuna è stata anche quella di non vincere 1-0 in 90 minuti, rubando la partita da Pitocchi, dopo la rabbiosa e squassante offensiva tedesca. Il 4-3, a pensarci, legittima tutto, anche le nostre fondate ambizioni a vincere definitivamente la Coppa Rimé. Ma se commettiamo gli sfondoni di mercoledì con il fiero e disinvolto Brasile, poco poco ne prendiamo da goleada. Attenti allora, da domani studiamo la partita, ci ragioniamo su e vediamo com'è possibile farla nostra, se davvero sarà possibile. Gianni Brera. Buon insegno, scappa Schulz, entra in questo momento in aria, traversone, rete, ha segnato il gol all'Italia! E non sappiamo dirvi con chi, sentire ascoltatori, ma esattamente con Rivera! Rivera ha segnato ora per l'Italia, emozioni a non finire. 6° minuto, l'Italia è passata in vantaggio con Rivera. 4-3 per l'Italia in questo finale di questa partita. Enrico Ameri, la voce che avete sentito, e Gianni Brera, la prima lettura che vi ho fatto da un articolo preso dal Giorno del 18 giugno del 1970. Tutti, moltissime persone quantomeno, quando si parla di Italia-Germania si ricordano il 2006, si ricordano l'82, ma l'Italia-Germania della storia, quello lì, è Italia-Germania 4-3. Per tutti è 4-3, ma per una persona, per una notte, il tempo di una notte, quell'Italia-Germania era finito 1-1. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui e noi raccontiamo storie tutti i giorni. In questo mese di luglio lo facciamo a tema, a temi diversi ogni settimana. Questa settimana è dedicata alle storie delle vostre partite mondiali. E la storia di Giuseppe è una storia straordinaria per diversi motivi. Primo, perché per una notte lui ha creduto che Italia-Germania fosse finita 1-1, ma lo è soprattutto per un altro motivo, perché lui si era ritrovato in Italia così un pochettino sballottato, perché arrivava dalla Libia, faceva parte di quel gruppo di italiani che erano in Libia e che durante quell'estate venivano allontanati. La sua storia racconta tutto molto meglio di me. Giugno 1970, Mondiali del Messico. L'Italia impazziva per gli azzurri, anche se fino a quel momento non avevamo propriamente brillato. I ragazzini sapevano a memoria le formazioni e i calendari delle partite ed entusiasti agitavano bandiere per le strade. Io avevo 9 anni, ma di tutto questo non sapevo niente. Io stavo in Libia con la mia famiglia, mamma, nonni, zii e cugini. Tutti con la trepidazione di essere da un momento all'altro cacciati dalla terra dove avevamo fino a quel momento vissuto, I miei erano nati in Libia, i miei nonni erano emigranti, i miei genitori sono nati in Libia e io sono nato in Libia. Storia di vita di altre 10.000 persone più o meno. Nessuno pensava ai mondiali, nessuno parlava di partite. Si sceglieva cosa portare in Italia e cosa lasciare in quella terra. Cosa poteva essere sacrificabile e cosa si riteneva indispensabile. Si escogitavano i modi su come portare via qualcosa in più rispetto ai pochi chili di bagaglio consentito ad ogni persona. I soldi si cercava di ammucciarli nei posti più insoliti. Qualcuno con più possibilità e mezzi decideva di attraversare il mare fino alla Sicilia in clandestinità, portandosi gioielli e denaro e rischiando la ghirba da benestante. Il rischio non era di fare naufragio, le barche erano più che buone, quanto quello di essere sparati. Ma le motovedette italiane ancora non erano arrivate e la guardia costiera libica era piuttosto sguarnita. La situazione diventava ogni giorno più grave. Il pericolo, vero o presunto, ma comunque sentito, sempre più reale, di essere arrestati o di essere espulsi, senza niente, spingeva i grandi ad affrettare le operazioni di impacchettamento e selezione. Quando una mattina vidi mia nonna distruggere con un bastone tutte le decorazioni natalizie e tutti i pupazzi del presepe, capì che era finita. Quelle decorazioni, sfere di vetro, pastorelli e figure di terracotta, erano sempre state trattate con ogni attenzione. A noi bambini era proibito toccarli per la loro preziosa fragilità, e adesso venivano ridotti in polvere dalle mani sapienti e forti di mia nonna. La distruzione continuò su un sacco di oggetti non trasportabili. Non eravamo in tanti e non ci sarebbero stati i magazzini del ricordo. Ghiacciaie, lavatrici, macchine del gas venivano resi inutilizzabili per non lasciare niente ai libici. Mia madre decise di mandare me e mio fratello via senza aspettare che tutte le cose fossero sistemate. Avevamo degli zii a Roma, zii anche loro della Libia, venuti via qualche mese prima. E allora il gran consiglio parentale decise di mandare me e mio fratello via con l'aereo. Io avevo 9 anni, mio fratello 6. Prendemmo l'aereo tenendoci per mano, affidati ad una hostess, ma io mi sentivo come se fossi solo al mondo. Tenevo la mano a mio fratello per dargli e per ricevere coraggio. Nel fondo delle tasche dei calzoncini corti avevamo 5-6 banconote di grosso taglio che dovevamo consegnare all'arrivo. Un'impresa che mi riempiva il cuore di paura, orgoglio, forza e disperazione. La mia infanzia finiva quel giorno. Sarebbe stato tutto diverso dopo. Arrivato a Roma, trovai mio zio all'aeroporto di Fiumicino e le bandiere italiane che sventolavano. Ma le bandiere non erano per noi profughi che tornavamo a casa, erano per i campioni che combattevano in Messico. Io e mio fratello venimmo perciò catapultati in questa atmosfera festaiola e di tifo. I ragazzi che conoscemmo ci parlavano di Rivera, di Mazzola, e noi sapevamo a malapena chi erano. Eravamo i libiani, esseri strani che non sapevano nulla di calcio. E la gente era completamente scollegata da quello, giustamente, da quello che vivevamo noi, cioè nel senso che noi eravamo i marziani che arrivavamo a Roma, che in qualche modo i grandi erano quelli che rubavano il lavoro agli italiani. Noi piccoli eravamo bambini che non sapevano nessun dialetto in qualche maniera, per cui avevamo questo modo di parlare un po' strano. Mi misi in testa allora di riparare, chiesi a mia zia di poter vedere la partita Italia-Germania, anche se finiva tardi. Lei capì e acconsentì a farmela vedere. Mi avrebbe fatto compagnia lei, anche se non le interessava più di tanto. Mio zio la mattina si sarebbe svegliato molto presto, per cui non era il caso. Vedemmo la partita io e lei. Cercai di entusiasmarmi, ma provaci tu ad entrare in partita con accanto una vecchia zia. Insomma, quando l'arbitro fischiò la fine del secondo tempo, il risultato era di 1-1. Mia zia mi guardò e mi disse: «È finita pari, andiamo a dormire». Il giorno dopo tutti parlavano della vittoria dell'Italia, di quella mitica partita, dei gloriosi tempi supplementari, dei gol e delle papere. Io non avevo niente da raccontare, non ne sapevo niente. Mia zia non sapeva niente di tempi supplementari e per lei la partita era davvero finita 1-1. Gli altri bambini mi guardavano con stupore: «Ma come, non hai visto i tempi supplementari? Ma che sei scemo? La partita è finita 4-3, non 1-1. Tentativo di integrazione andato male. Ero un alieno sbarcato a Roma con un bagaglio di speranze e di ricordi strazianti. La storia di Giuseppe è un esempio piuttosto drammatico di come i mondiali di calcio scorrano a fianco alle vite di ognuno di noi. Che ci interessino oppure no, che siamo informati o meno, ognuno di noi lega ricordi strettamente connessi a quella scadenza quadriennale e alle partite giocate dalla propria nazionale in quei giorni. La storia di Italia-Germania 4-3 è piuttosto nota. Peccato che per Giuseppe sia rimasta solo un'Italia-Germania 1-1. Credo sia forse l'unico italiano insieme a sua zia ad avere creduto per una notte che quella partita fosse finita in pareggio. Una storia che si conosce sempre meno è quella degli italiani in Libia e di come da realtà coloniale l'Italia fosse diventata ospite di quella nazione fino poi a diventare del tutto sgradita. In quell'anno, tra il 1969 e il 1970, a tutti gli italiani presenti in Libia, che più o meno erano circa 20.000, vengono confiscati i beni, le case, le proprietà e le aziende. Alcuni riescono ad andarsene proprio come Giuseppe e suo fratello, altri invece rimangono fino a che non saranno cacciati. Il governo Moro in Italia non sa come comportarsi e il ministro degli esteri libico, Salah Bousir, in una conferenza stampa, dichiara che non si tratta di una confisca di beni italiani, ma soltanto del recupero delle proprietà che l'Italia ha confiscato agli arabi nei 32 anni di dominio coloniale. Insomma, lentamente gli italiani vengono cacciati, uno ad uno. Ho trovato in rete la dichiarazione di una giovane donna sarda, la cui famiglia era in Libia dal 1926, che racconta come proprio in quell'estate, pochi giorni dopo la fine di quel mondiale vinto dal Brasile sull'Italia, lei e la sua famiglia furono allontanati da quel paese. E scrive così. Io non dimenticherò mai quel giorno di fine luglio 1970. Mi svegliai sentendo degli altoparlanti. Erano montati su automobili del governo, addobbate con palloncini multicolori. Ma non annunciavano una festa. Annunciavano che gli italiani dovevano andarsene al più presto. Potemmo portare via con noi soltanto 25 sterline a testa e le valigie. All'aeroporto, prima di prendere imbarco sugli aerei noleggiati dall'Italia, subimmo l'ultima umiliazione. Fummo perquisiti come ladri. Quando l'aereo prese quota e vidi sparire le spiagge della Tripolitania, cominciai in silenzio a piangere. Pensavo alla mia casa in Sharasharki, che avevo arredato con tanto amore. Pensavo al mio pianoforte, che non avrei più suonato. Pensavo a mio marito, Francesco, che lasciava a Tripoli una grande falegnameria. Come avremmo potuto cominciare in Italia senza soldi e senza conoscenze? Infatti fu un disastro. Da industriale che era, mio marito fu costretto a fare l'operaio. È una foto di quell'epoca e per di quell'epoca intendo proprio di quegli anni e probabilmente in Libia, quella che ci ha mandato Giuseppe e che vi consiglio di andare a vedere. Sono un gruppo di bambini, sono 2, 4, 6, 8, sono 9 bambini intorno a un tavolino con una torta e 2 candeline. Immagino che quello che le spegne sia lui e sulla torta c'è scritto auguri. Pronto Giuseppe? Pronto, pronto, ho sentito questa altra testimonianza, mi sono commosso, sto piangendo. Guarda, l'ho trovata quando mi è arrivata la tua storia, ho fatto una ricerca perché devo dire che colpevolmente ne conoscevo poco della storia degli italiani in Libia e ci sono diverse testimonianze come quella di questa signora sarda e sono è veramente un mondo perché come dici tu eravate poche migliaia di italiani, però è stata chiaramente uno sradicamento totale della vostra vita. Sì, proprio totale, esattamente totale. Poi io ero un bambino, per cui diciamo che io ho potuto recuperare, ma ci sono stati tanti che sono ancora ammalati in Libia, insomma, per cui proprio così. Che cosa facevano i tuoi là in Libia? Dunque, mio padre lavorava per un'impresa elettrica ed è morto lì con un incidente sul lavoro. Mia madre invece, dopo varie cose, aveva un negozio che di articoli di Capodimonte, così, che praticamente venne chiuso da due soldati che andarono lì la mattina, hanno detto questa è roba nostra, hanno chiuso la serranda, l'hanno mandata via. E quando è arrivata in Italia, come si era ricostruita una vita? Guarda, è stata difficile perché siamo arrivati qua, ci hanno mandato a Roma, prima di tutto hanno mandato la famiglia, il resto della famiglia l'hanno mandato a Roma, sì. Ma noi diciamo le nostre più o meno radici erano in Sicilia, per cui c'era mio nonno che voleva tornare in Sicilia, mia madre che diceva che ci torniamo a fare in Sicilia, che poi questi ragazzi che fanno, per cui hanno provato a fare aprire un negozio qua in Italia, ma è andato, quei due soldi che ce l'avevamo sono andati persi, per cui dopo varie cose ha trovato un lavoro poi in una fabbrica vicino a Roma e si è messo a lavorare a Roma, insomma. Quindi ci sono voluti un po' di anni chiaramente per ricostruire cioè una vita familiare. Tu invece poi sei riuscito a studiare, hai fatto lavori particolari? Sì, io vabbè, ho fatto un po' di tutto quando ero giovane, poi praticamente ho fatto un concorso in banca, sono entrato in Banca d'Italia, lavoro... Sei lì in Via Nazionale a Roma? Esatto, sì. E di cosa ti occupi esattamente, Giuseppe? Tipo di pulire i soldi? Io mi immagino la Banca d'Italia, io me la immagino come il deposito di Zio Paperone, capito, la Banca d'Italia, cioè quell'immaginario lì. Sì, diciamo che è anche un po' quello, però diciamo che qui da noi non, in Via Nazionale non si fanno i soldi, si fanno da un'altra parte. Io mi occupo di pubblicazioni, cioè sono uno che si occupa dei grafici delle pubblicazioni, delle varie pubblicazioni ufficiali dell'istituto. Senti, invece, scusa, torniamo un po' là perché sono molto affascinato da quella cosa. Sì, Sei mai tornato in Libia? No, purtroppo mai. No, perché per tanto tempo sai che c'è stato il divieto, no? Per gli italiani nati in Libia non potevano rientrare. Poi quando c'è stata la possibilità di rientrare, io mi stavo preparando a rientrare, cioè nel senso che volevo portare pure mio figlio, per cui ho ricominciato a studiare l'arabo e poi è successa la primavera araba, per cui la primavera libica, per cui non è successo tutto il casino che è successo. Ma tu lo parli un po', Giuseppe, ti ricordi qualcosa? Guarda, mi ricordo qualcosa, non diciamo che mi ricordo un po' di, soprattutto le parolacce, me ne ricordo soprattutto quello è un classico, certo. Mi ricordo un alterco un po' di tempo fa con un arabo che si è sorpreso perché ho preso la parolaccia, va bene, e poi diciamo che ho viaggiato in Marocco, che diciamo, sai che si parla pure lì, arabo più o meno, e mi sono accorto che mi ricordo più arabo di quanto pensassi, insomma. Beh, tra l'altro ho detto mi ricordo più arabo di quanto pensassi, esatto, è magnifico, esatto. Giuseppe, scusami, ma invece e poi ti devo salutare, ma che ricordi hai di bambino? Cioè ti ricordi cosa, che so io, il caldo, la luce, rispetto all'Italia? Guarda, mi ricordo il deserto, che è una cosa fantastica, cioè nel senso che io poi ho uno zio che faceva la guida nel deserto, perché ci ha portato qualche volta lì. Noi andavamo, cioè qua in Italia si raccoglie la cicoria, noi andavamo a raccogliere i cardi vicino agli uadi, vicino ai cammelli, capito? Per cui immagina questa cosa, ecco. Il caldo in estate? No, perché c'era il mare che era bellissimo, stavo sempre a mare, per cui proprio il caldo non me lo ricordo. Se ne parla delle spiagge libiche come di spiagge incredibili? Sì, sono bellissime, guarda, proprio belle, ho visto ancora delle immagini che sono... Poi c'è, sai, i vari posti romani, c'è l'Eptis Magna che sta sul mare, che è un posto stupendo proprio. Infatti io spero di tornarci, spero che adesso pure questa passata di rivoluzione passi in qualche maniera e ci sia questa possibilità di rientrare, perché ce l'ho proprio nel cuore, guarda. Lo immagino. E in tutto questo, Giuseppe, noi non abbiamo minimamente toccato l'argomento che era incredibile, cioè che tu hai creduto per una notte che Italia-Germania, cioè quell'Italia-Germania, credo non ci sia stato un altro Italia-Germania, perché va bene, ok, il 3-1 della Spagna, il 2-0 della Germania, però quell'Italia-Germania 4-3 ci hanno fatto i film. Infatti, quella è mitica, no? E tu invece 1-1. Ragazzi, è finita 1-1, che peccato. Giuseppe, io ti ringrazio molto perché davvero questa sera insomma, camminando parallelamente ai mondiali, che è il nostro argomento della settimana, ci ha dato uno squarcio davvero interessante. Grazie ancora. Io ringrazio tanto a te, tanto veramente a te, e anche per quelle altre cose che stai ricordando. Grazie. A nome di tutti noi libici, in qualche maniera, ok? Ciao Giuseppe, grazie. Ciao. 349-238-6666. Mia nonna, non so perché, mi parlava degli italiani in Libia, perché aveva un parente che era là, e quindi dei, evocazioni di ricordi che salgono così. Però si parlava di partite che credevate fossero finite in un modo, e invece erano in un altro. Sandro, ho pensato per una notte che la partita tra Milan e Liverpool a Istanbul, partita che ci ricordiamo tutti molto bene, fosse finita 3-0, e invece no, per il Milan, visto che ero in montagna a fare campeggio libero dopo che la notizia spense e andai a letto. Sandro, forse non te lo ricordi, quella partita alla fine finì 3-3 e la vinse invece il Liverpool. Adelmo, vidi Italia-Nigeria USA 90, ne abbiamo parlato ieri a metà, e pensai che fossimo usciti considerata la partita orribile che giocammo. Poi arrivò Roberto Baggio. Scusami, USA 94, non USA 90. L'ultimo messaggio, Ettore, non volli vedere il supplementare di Italia-Francia all'Europeo del 2000, e come no, quindi non volli sapere come finì. Ero negli Stati Uniti e nessuno ne parlava, ma dentro di me sapevo che ci avrebbero fregati. E Ettore, la parola fregati, diciamo che quella roba lì del Golden Goal è la parola... Ma esiste ancora il Golden Goal? No, proprio quella roba lì, Trezeguet, che poi ha acquistato dalla Juve per la famosa operazione simpatia della Juve, che prima acquistò Ibrahimovic. No, prima acquistò Trezeguet dopo quel gol all'Italia, e l'anno in cui Ibrahimovic segnò di tacco all'Italia ai mondiali e agli europei lo acquistò immediatamente. La famosa operazione simpatia della Juventus. Grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Giuseppe, perché la storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa.